Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti, buona giornata e eccoci di nuovo con le pillole di ecomobilità con Gringo. Sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko e qui con me ho di nuovo Federico Angeli, il proprietario di Gringo. Ciao Federico. Ciao Irene e nuovamente buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Grazie mille per essere qui di nuovo. Grazie. Io a voi. Ti sfrutto perché siamo voraci, in realtà abbiamo una gran voglia di capire di più che cos'è questa ecomobilità. Certo. Quindi io ti pongo subito un quesito pratico. Allora, vai. È mattina, sì. È un lunedì, è una giornata difficilissima per definizione, lo sappiamo tutti. Io devo andare a lavorare, devo attraversare il centro di Bologna. Ho due possibilità, o attraverso il centro o prendo la tangenziale, che non so se sia meglio. Vengo da Gringo perché sono disperata. Gringo che cosa mi dice? Come faccio ad arrivare in orario al lavoro senza essermi già sparato alla tempia per il traffico e tutto quello che ne consegue? Ci proviamo, di solito noi mettiamo il cartello SOS pronto soccorso del lunedì mattina. No, scherzo. Allora, sicuramente la prima domanda che ti facciamo, non per farci i cavoli tuoi, ma è capire cosa devi fare, cioè attraversare il centro va bene, ma dove devi andare? Detto ciò, a quel punto che tu prenda una nostra e-bike o un nostro monopattino, la soluzione al problema è renderti la vita più semplice, nel senso che... È una pianificazione, una strategia, è una strategia si mette proprio davanti a un tavolo con una mappa, allora per arrivare dal punto A al punto B, come possiamo È quasi fare? Un'intelligence alla 007, esatto. No? Nel senso che... Quello che andiamo facendo è offrirti delle soluzioni di mobilità integrata per gestire al meglio la tua giornata lavorativa, il tuo stress, la tua esigenza. Ecco, oggi esistono delle soluzioni in più che Gringo ti può offrire. Ad esempio, vieni da noi, lasci la macchina parcheggiata davanti al nostro negozio o nelle zone limitrofe e attraversi il centro di Bologna con un e-bike o un monopattino. Questo ti permette di non avere lo stress del traffico. Quando tu parli di mobilità integrata, cosa intendi esattamente? Perché è un termine che esatto. Secondo me non tutti esatto. hanno... Intendo che tu non fai più il percorso da A a B solo con un mezzo, okay. Ma integri nel tuo percorso più mezzi. Significa che, ad esempio, caso che stavamo facendo, vieni da noi, lasci la tua auto di proprietà parcheggiata nel nostro quartiere, che siamo al quartiere Savena, e da lì cambi mezzo. Prendi un mezzo Gringo che paghi solo per il tempo che utilizzi, quindi non devi comprare un e-bike, la noleggi per il tempo che ti serve, vai dove devi andare senza avere problematiche di traffico, perché appunto ti muovi con dei velocipedi sulle ciclabili, certo. Che sono sicuramente più snelle rispetto ai viali o alle strade nostre della città. Risparmi anche i soldi del parcheggio, perché non devi spendere nelle strisce blu e quant'altro, non devi trovare parcheggio, quindi oltre che il risparmio di soldi anche di tempo. In più, se vogliamo guardare anche a un aspetto che non è da poco, cioè l'aspetto ambientale, non inquini, perché ti stai muovendo all'interno di zone che è il centro storico, dove comunque se possiamo renderlo meno inquinato è meglio per tutti, soprattutto perché le strade, i parcheggi sono pochi, le strade sono abbastanza intasate e il motore rimane acceso per un periodo. E poi mi permetto di dire una cosa, secondo me, perché io abito in centro, un aspetto che si tralascia di questa ecomobilità è anche il rumore. Questi mezzi non fanno rumore. Diciamo che sono mezzi che soprattutto sono nati, cioè secondo me la smart mobility non è ovviamente come tutte le cose la bacchetta magica che risolve tutti i problemi, questo ovviamente, ma non è una mobilità per tutti o che serve ovunque, è una mobilità cosiddetta dell'ultimo miglio, un termine che tecnicamente si usa molto, cioè proprio a dimostrare che cosa? Che tu ti porti con i mezzi tradizionali fino alla prossimità della ZTL o comunque della zona congestionata a livello di traffico. E poi ovviamente usi il mezzo ecosostenibile per fare l'ultimo miglio, che sicuramente ti fa vivere meglio anche a livello psicologico oltre che ambientale, insomma. Quindi mi stai dicendo che io adesso posso affrontare il lunedì in una maniera, diciamo, puoi evitare di fare assolutamente la tangenziale, anche perché ci sono dei mezzi che ti permettono con grandissima comodità di raggiungere, per dirti, San Lazzaro, Borgo Panigale e ritorno senza problemi. E quindi noi vi invitiamo caldamente, ovviamente come tutte le volte, a fare una bella visita a Gringo, che si trova in via Bellaria, e Federico è lì che scalpita per potervi raccontare le bellezze dell'ecomobilità. E vi ringraziamo e vi invitiamo all'ascolto della prossima pillola, che arriva prestissimo. Grazie, ciao a tutti. Ciao.